Speciale, la politica nel tunnel. Marini 521, Rodotà 2,40, Chiamparino 41, Prodi 14, Bonino 13, D'Alema 12, Napolitano 10, Finocchiaro 7, Cancellieri 2, Monti 2. Non essendo stata raggiunta da alcuno la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, occorre procedere ad un secondo scrutinio. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla postazione di Radio 24 a Montecitorio. E buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta. In corso qui a Montecitorio la seconda votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica, votazione che andrà a vuoto dopo che il Partito Democratico ha avvisato che voterà scheda bianca a seguito della debacle della candidatura di Franco Marini. Una scelta criticata dal segretario PDL Angelino Alfano, che sprona il Partito Democratico a trovare una soluzione. Il PD comunica di votare scheda bianca alla seconda e alla terza votazione, dice Alfano. Ne prendiamo atto, ma invitiamo tutti a impegnare questo tempo per individuare la soluzione più idonea. E Alfano precisa: Marini ha ottenuto la maggioranza assoluta, ovvero sarebbe passato alla quarta votazione. Sentiamo poi che cosa ha detto Maurizio Gasparri. Diciamo che il Partito Democratico sta scaricando sulla pelle del paese il suo congresso, le sue faide, le sue liti, le sue incapacità di fare scelte. Questo è un problema per la democrazia, avere un partito importante così diviso e triturato al suo interno. A questo punto cosa succederà? Una candidatura che potrà andare avanti? Io mi auguro di sì, ma lo vedremo, insomma. Il vero problema per la democrazia è che c'è un partito come il PD dilaniato al suo interno. Queste le parole di Gasparri del Popolo della Libertà. Ricordo la possibilità per i nostri ascoltatori di inviarci degli sms 349-238-6666. Gasparri parlava di un Partito Democratico in difficoltà, carte quindi rimescolate nel partito uscito vincente dalle elezioni. Si cercherebbe un altro candidato, si fa strada il nome tra gli altri di Romano Prodi, bocciato però dal Popolo della Libertà ma votato alle Quirinarie dal Movimento 5 Stelle, che però continua a sostenere la candidatura di Stefano Rodotà. E la prima votazione viene criticata dal Popolo Grillino. Sentiamo Roberto Fico. Lo vediamo come una perdita dell'inciucio che stanno cercando di fare PD e PDL sul nome di Marini, e un inizio di vittoria per Rodotà, perché oltre 163 voti nostri sono stati i voti di Sele, siamo arrivati a 208, e più gli altri, che siamo arrivati a 240, che potrebbero essere del PD, come credo che sia di una parte del PD. Quindi c'è una vera spaccatura in questo momento nell'alleanza di centrosinistra e nel centrosinistra, perché c'è una parte che vuole continuare a fare i giochi di palazzo che ci hanno tenuti schiavi per 20 anni con questi giochi, portando il paese in distruzione, e una parte che sta cercando di liberarsi. Noi del Movimento vogliamo dare forza a tutta questa parte che sta cercando di liberarsi e che converga il più possibile in maniera più ampia e forte su Rodotà. Ecco, però qualcuno dice che Rodotà rappresenta la vecchia politica come Marini. Perché sì Rodotà, no Marini? Perché Rodotà è colui che ha ideato e elaborato insieme ad altre personalità il referendum sull'acqua, è colui che ovunque è stato con i beni comuni, ha elaborato progetti, ha del diritto, è un professore di diritto che ha messo a disposizione il suo servizio per tutti i beni comuni, e abbiamo elaborato dei referendum che il paese ha vinto e che noi qui all'interno cercheremo di far rappresentare e vincere. Qualora ci fosse un altro nome, magari Prodi oppure la Bonino, che pure erano stati votati. Il nome nostro è Rodotà, anzi faccio un appello a SEL di votare Rodotà fino alla fine, perché nel momento in cui fanno un altro nome all'ultimo e SEL converge poi sull'altro nome, secondo me diventano poco seri e fanno il gioco del sistema. Ha visto questa foto con Bersani che ha il braccio sulla spalla di Alfano, come la giudica? La giudico l'immagine triste di un paese e di una parte piccola del paese che non vuole cambiare, ma tutto il resto fuori vuole cambiare. Intanto sentiamo che qui fuori a Montecitorio ci sono delle proteste, ci sono dei sostenitori di Rodotà e stanno manifestando. Intanto vi ricordo che ci potete mandare un sms al 349-238-6666 ed è caos nel PD. Si prevede un'altra assemblea dei grandi elettori del Partito Democratico per domani a pranzo. La seconda e la terza votazione, per la quale occorrono ancora 2/3, andrà a vuoto e il PD voterà scheda bianca, ma poi occorre trovare un nome condiviso. Dalla quarta votazione basta la maggioranza assoluta. Sentiamo cosa ci ha detto il renziano Ivan Scalfarotto. Ma adesso vediamo che cosa ci sarà da fare. Noi avevamo considerato questa candidatura una candidatura sbagliata nel metodo, in particolare al di là poi delle caratteristiche personali del presidente Marini, che forse non interpretano al meglio, diciamo, il bisogno di discontinuità, di cambiamento che il paese interpreta. E quindi forse il fatto di avere una candidatura concordata con gli avversari politici ma non condivisa all'interno non è stata una grande idea, diciamo. Adesso forse, se prendiamo questo tempo per condividere una candidatura all'interno, penso che possa essere un passo avanti almeno sul piano del metodo. Poi sappiamo che al quarto scrutinio il quorum scende, quindi le cose saranno più semplici. Ecco, ma voi che voterete alla seconda votazione a Montecitorio? Adesso vediamo, perché oggi noi non ci siamo dati un'istruzione di corrente, perché non vogliamo fare la corrente organizzata in sostanza, e quindi non abbiamo avuto qualcuno credo che abbia votato per Chiamparino, che ha preso molti voti, altri ha votato Bianca, credo qualcuno abbia dichiarato di votare per Bonino, e quindi vediamo che cosa succederà. È chiaro che forse bisogna fare anche qualche discussione nel partito in queste ore prima del prossimo scrutinio. Quindi non voterete comunque Marini, questo lo può escludere? Beh, non l'abbiamo votato al primo turno, prima direi che sarebbe ben strano se lo votassimo al secondo. Ivan Scalfarotti, che cosa ha votato? Io ho preannunziato scheda bianca, perché secondo me al primo turno, quando c'è un quorum così alto, in realtà è un referendum, cioè c'è il voto per il candidato designato o tutto il resto, per cui votare Chiamparino, Bianca, Bonino voleva dire soprattutto votare no a Marini. Diciamo che quindi io non ho votato Marini. Quindi, insomma, che cosa chiedete adesso a Bersani? Ma io ho anche una riflessione su come è andata, direi che sarebbe il caso. E una riflessione la chiedono anche i nostri radioascoltatori, molti gli sms, sono un elettore PD da sempre, no d'accordi con il PDL, si voti Rodotà, Paolo da Foggia, ma anche Matteo da Modena, basta inciuci, forza Rodotà, il PD sta dando un ulteriore assist al PDL, Bersani dovrebbe dimettersi e lasciare il passo ad altri. Allora Vincenzo, la situazione è ancora magmatica. Magmatica, direi che un consiglio ce lo dà in questo momento un nostro ascoltatore Fabio, presumo io da Milano, che dice: perché nessuno ha pensato a Mario Draghi? Beh, Mario Draghi potrebbe essere un buon candidato. Comunque il nome su Franco Marini, evidentemente questa mattina c'è stato un vero e proprio flop, non ha retto quindi l'accordo PD-PDL Scelta Civica, si è fermato Marini a quota 521, ovvero 151 voti in meno del quorum dei 2/3 necessari, ossia 672 per l'elezione, voti mancanti non solo dal Partito Democratico, come previsto dopo l'infuocata assemblea di ieri sera, dove in 120 tra contrari e astenuti si erano espressi contro l'ex presidente del Senato, ma anche ai sospetto conti alla mano da PDL, Lega e Scelta Civica. A questo proposito sentiamo Lorenzo Cesa. Mi risulta che ci siano stati dei franchi tiratori all'interno di Scelta Civica, perché è stata presa una decisione unitaria. Detto questo, purtroppo non si è trovata una soluzione utile che mettesse insieme tutte le forze politiche presenti in Parlamento, perché l'elezione oggi del Presidente sarebbe stato un ottimo segnale per gli italiani, per l'Italia, e soprattutto avremmo potuto da domani magari lavorare alla formazione di un governo. Così non è, prendiamoci queste ore per ragionare, per davvero cercare di ricucire i rapporti tra i partiti, perché il Paese ha bisogno di un governo. Ma il nome di Marini è tramontato secondo lei o tornerà magari alla quarta votazione? No, mi sembra che abbia avuto più dei voti, più della maggioranza dei parlamentari, e quindi è possibile che lo si ritrovi candidato alla quarta votazione. Questo però sinceramente dipende da una decisione che deve assumere il maggior partito presente in Parlamento, che mi sembra che abbia dimostrato oggi molta fragilità, e anche dal presidente Marini, una scelta personale. Sarà più difficile governare in futuro? La vedo molto dura, sì, la vedo molto dura. Se non troviamo una soluzione, intravedo presto le elezioni. E quindi urne più vicine secondo Cesa. Intanto una curiosità: Domenico Scilipoti voterà Rodotà come il Movimento 5 Stelle, Vincenzo? Sì, e i nostri ascoltatori Mario e Lucio in particolare chiedono Mario Draghi alla presidenza del Consiglio. Vogliamo Prodi, dice Mario da Parma. Però Draghi non può perché è presidente della BCE. Un saluto a questo punto da Elisabetta Fiorito e da Vincenzo Miglietta.